Una critica al modello di sviluppo occidentale arriva dal mondo accademico. L'economista e ricercatore presso l'Università di Firenze, Andrea Ventura, ha scritto un libro dal titolo La trappola, radici storiche e culturali della crisi economica, edito dall'Asino d'Oro Edizioni, e ci fornisce la sua interpretazione sui motivi della crisi. Questa mattina è in linea con noi proprio per parlare del suo libro. Buongiorno, professor Ventura. Buongiorno a lei. Professore, ecco la prima domanda che mi viene in mente. Perché la trappola? Dunque, la trappola sono varie trappole incastrate una dentro l'altra. La prima trappola è quella per la quale in qualche modo la cultura dominante ci spinge a cercare il benessere nella dimensione economica, nell'arricchimento materiale, e quindi noi siamo portati a inseguire un modello di consumo e di vita pensando che saremo più felici. In realtà si verifica uno strano fenomeno che è quello che gli economisti chiamano il paradosso della felicità, per la quale le persone che hanno più soldi, che apparentemente dovrebbero stare meglio, in realtà non si verifica questo fenomeno, anzi spesso stanno peggio. Quindi abbiamo una crescita economica sostanzialmente distruttiva delle relazioni sociali, però il sistema economico è organizzato in modo tale che nella misura in cui questa trappola dovesse essere disinnescata perché la gente cerca altro, l'economia va in recessione e quindi dobbiamo continuare a inseguire questo modello anche se non ci soddisfa sul piano umano. E questi sono anche i motivi della crisi, secondo lei? Sì, diciamo sono i motivi della crisi perché nel passaggio fra gli anni 70 e gli anni 80, invece di pensare che una crescita quantitativa basata sul passaggio dall'economia agricola all'economia industriale fosse esaurita, si è cercato di continuare a inseguire questo modello di crescita basato sull'arricchimento individuale e si sono creati dei nodi che poi sono quelli che sono stati alla base della crisi attuale. Quindi abbiamo avuto 30 anni di crescita, non tutta negativa, perché ovviamente non si può pensare che fosse tutto, come dire, che già ci fossero le premesse dell'errore prima, però è una crisi, diciamo, legata a un modello di sviluppo che si è andato esaurendo, ecco, e quindi non è semplice uscirne. E con quale stato d'animo, secondo lei, dobbiamo guardare, dobbiamo porci dinanzi al futuro? Con uno stato d'animo, da un lato, di preoccupazione, perché bisognerebbe avere gli strumenti anche culturali per uscire da questo modello di sviluppo che di fatto è distruttivo delle relazioni sociali, dell'ambiente e dei nostri sistemi, insomma. In qualche modo, forse anche con un po' di ottimismo, perché nei momenti di grande cambiamento devono essere rivisti dei modelli culturali, un nostro modo di essere, un nostro modo di vivere, e quindi periodi di crisi possono anche essere dei periodi che aprono prospettive nuove per il futuro. Grazie, professore.